Ecco, qui siete in quattro, ma quante cioè vi siete conosciuti a scuola? Io e lui ci siamo conosciuti, cioè lui lo conosco prima, no, com'è la storia? Cioè te sì, infatti, lo conosco prima di essere nato. Era questo lo scherzo. Perché cioè praticamente i nostri genitori già fondamentalmente si conoscevano, cioè stavamo veramente vicini, poi anche con Duccio, insomma, cioè, ci si conosce da sempre, cioè, i miei ricordi da bambino iniziano con loro, che non sono solo legati alla scuola, perché comunque con il Dibio ci ho fatto elementari, l'asilo elementari insieme, poi alle medie no, ci hanno diviso, però sì, cioè, ci divisero tra l'altro, sì. Bellissimo, Ivan Lomauro e Daniele Di Bello non devono andare a scuola nella stessa classe, c'era scritto nel foglio dell'elementare, perché si faceva un bordello. E comunque non solo con lui, ecco, cioè anche con altri, mi capita spesso di tornarci, mia nonna sta lì quando becco amici, mi trovo a ragionare, no? A livello di socialità è secondo me uno dei posti migliori in cui crescere nella zona, perché... Ecco, vi volevo chiedere questo, quanto ha influito questa educazione, diciamo, infantile, dell'infanzia o comunque fino a una certa età, sulle vostre aspirazioni, sulle vostre iniziative, su quello che siete adesso, ecco. Allora, io devo ammettere che essere cresciuto lì è stato molto formativo sotto certi punti di vista, perché anche una cosa semplicissima come giocare, come inventarsi il gioco da fare, noi ogni 2-3 mesi facevamo qualcosa di nuovo, cioè abbiamo giocato tra di noi, autocostruendoci le cose, recuperandole, rubandole, abbiamo giocato a baseball, ad hockey, abbiamo giocato a tutti gli sport, a rugby, abbiamo fatto tutto. Do it yourself, cioè noi l'immaginazione non ci è mai mancata, gare di bicicletta, sotto i garage. A fare mille cazzate, cioè tendenza, e anche a livello, cioè non solo a livello di fare quello che vuoi fare e cercare di farlo, ma anche a livello sociale, ha influito molto, perché tutti i giorni, tutte le sere, soprattutto d'estate, cioè, passavamo da maggio a settembre, stavamo insieme 20 ore al giorno, manca poco, cioè tra la scuola e il dopo scuola e la sera, poi quando era bel tempo uscivamo anche la sera fino a mezzanotte, fino a luna, cioè ci ha migliorato la vita sotto certi punti di vista rispetto a, ne so, io vedo mio fratello che è più piccolo, che lì ha avuto meno amici e che insomma gli altri li ha visti cioè gli amici li ha visti meno, le cose ne ha fatte meno. Sì, volevo dire, poi nel senso, da quando abbiamo avuto la possibilità, ovvero da quando sostanzialmente abbiamo avuto la possibilità di avere il motorino, e poi si è anche cambiato aria volentieri, perché comunque c'avevi la città accanto e perché nulla ci tratteneva lì. Però io comunque, appunto, al di là del fatto che poi i ricordi d'infanzia sono anche non legati solo alla geografia, ma anche alla famiglia, eccetera, però io ho un ricordo molto bello della mia infanzia, cioè a differenza di tanta altra gente che sento in giro, cioè io se penso a quei periodi lì, cioè sono contento, anzi forse posso dire di non essere mai stato così bene, cioè come quelle estati passate appunto in questo modo qua, ecco, e so, io spero sia così tuttora per i bambini, i ragazzini da adesso, so, spero sia così, ecco. E continuando nel nostro tentativo, ecco, di dare una topografia, una geografia e una storia a questo quartiere, chiediamo a quello, diciamo, che è proveniente da una famiglia autoctona, famiglia fiorentina appunto, come erano i rapporti, se c'era questa differenziazione dei rapporti, da quanto è stato detto precedentemente, parrebbe di no. Come erano i rapporti tra, diciamo, i nativi e gli immigrati, ecco. Allora, vai, parlo io. Diciamo che allora non c'è mai stato nessun problema, perché sostanzialmente nell'83-84, quando ci sono tornati quasi tutti, perché bene o male i palazzi sono già nell'85 erano tutti pieni, sono tornati tutti subito. Al massimo ci poteva essere quello che era il pugliese o il calabrese, ma non è che c'era da affrontare barriere linguistiche, quindi sostanzialmente diciamo l'integrazione è stata semplicissima, anzi non si può parlare di integrazione, tanto che tutti i nostri genitori sono amici appunto da sempre, e niente, abitando lì fin dall'83, noi appunto essendo proprio nati lì ci siamo conosciuti tramite anche già un'amicizia instaurata dai nostri genitori. Infatti ho foto, ricordi per loro, cioè con loro di quando si era piccini, per dire, insomma, ricordate Mirabilandia, non so le cazzate, sì, ora si fa per dire, no? Però ecco, diciamo, non si può parlare di integrazione, perché detto al massimo era una differenza regionale. Per fortuna non c'è cioè non ho mai sentito nessuno che diceva odio i terroni, ecco. Le contraddizioni oppure i problemi da risolvere, non solo da parte vostra, diciamo da parte delle famiglie, ecco, non so, la scala non, l'ascensore non funzionava e cose, come veniva risolti? C'erano delle sorte di assemblee di condominio, oppure ecco, era proprio una cosa ancora più informale, ecco? No, l'assemblea di condominio ci sono tuttora, purtroppo, nel senso che ora, prima mi sono fatto prendere dal sentimentalismo e dalla positività del ricordo, però secondo me invece quello, diciamo, della gestione un po' più formale del sociale è stato un po' sempre un tallone d'Achille, almeno nei nostri palazzi, perché poi ogni blocco di palazzi o quasi ha una propria assemblea, sì. Diciamo vanno a coppie, diciamo così. Però ecco, da quel punto di vista, purtroppo l'assemblea di condominio non sono mai state un momento, diciamo, orizzontale in cui provare, diciamo, ad autogestire questo microcosmo formato appunto da questi due blocchi di palazzi attaccati, quanto sempre un luogo dove far valere delle piccole gerarchie, dove infilare a fare il lavoretto il figlio del capetto di turno, sostanza, queste sono sempre state le dinamiche dove appoggiarsi all'amministratore di condominio connivente, eccetera eccetera. Ci sono sempre state queste figure, una in particolare che non è, insomma, non formalizzate, però contavano più di altri, proprio perché c'erano sto ruolo un po' egemonico nell'assemblea. E insomma ci sono stati, si sono attratte anche diverse antipatie, c'è stato sempre un po' di dibattito sotterraneo, però spostare gli equilibri significava entrare in assemblea e a tua volta provare a conquistare l'egemonia, cosa che quasi nessuno c'ha voglia di fare, per questi soggetti riescono a fare un po' il bello e il cattivo tempo, a piazzare il figliolo appunto a riparare i tubi, quell'altro figliolo a fare il progetto per non so che, l'impresa amica di qui e di là. Questo è successo anche, insomma, in anni recenti, e io ne parlavo con la mia mamma e sta ancora lì, io non ci sto più da diversi anni, però non c'è gente disposta, ecco, a rompersi i coglioni. E al di là di questo aspetto qui, i problemi quali erano? Ecco, le problemi strutturali delle case, mancanza di parcheggi. Dal punto di vista prettamente edilizio, mi fa, ma sempre detto che un posto come quello difficilmente l'ha visto realizzare, perché comunque Era brutto, orrendo, non si poteva vedere, però è stato tra i primi palazzi antisismici costruiti nella zona. La facciata è stata rifatta 20 anni dopo? Vent'anni dopo, cioè problemi strutturali non l'aveva, a differenza di tante cooperative che hanno costruito negli ultimi anni, che hanno fatto degli obrobi, delle case che cadono a pezzi, infiltrazioni ovunque. A livello appunto di edilizia è perfetto, il parcheggio si è sempre trovato. Cioè c'era il garage, se non c'avevi il garage più o meno per lo meno lo trovavi, ora magari meno, perché all'epoca una famiglia aveva una macchina, e poi quindi c'erano meno persone in generale, sì, e c'era anche meno gente intorno, hanno costruito anche dietro, poi cioè ci sono stati, perlomeno è stato costruito anche con un minimo di lungimiranza da questo punto di vista. E poi vabbè, uno sketch simpatico mi ha raccontato la mia mamma, perché all'epoca mia mamma il suo primo lavoro, lei puliva le scale dove abitavo io e di tutto l'edificio, diciamo, dove abitavo io. Poi ha smesso perché appunto doveva subentrare un'altra a pulire, e lei è stata mandata via tra lacrime, pianti, per diversi anni non ha parlato con gente, vabbè, quelle poi sono... è così. E uno sketch simpatico è stato che dopo un anno hanno chiamato lo spurgo perché si era intasato tutto di preservativi. Questo fa molto ridere, sì. Ecco, quando è entrato, visto che alcuni di voi suonano, comunque frequentano situazioni di concerti, avete cominciato fin da lì, eravate in diversi, cioè a un certo punto è penetrato, diciamo, il sentire la musica, ecco. Allora, praticamente succedeva così, che praticamente sostanzialmente lì accanto al Neto, dove c'è ancora l'Istituto Tecnico Geometri, all'epoca c'era un piccolo negozio che non esiste più, penso abbia chiuso tipo a fine anni 90, e praticamente era l'unica fonte musicale della zona, perché già comunque, come si diceva prima, da molto piccolo uscire dal Neto non ne avevi bisogno, non ci pensavi, e quindi andare in centro a Sesto tipo al Musicrama era tipo boh, lontanissimo. E quindi sostanzialmente mi ricordo che a una certa, non so chi prima, se io, Ivan o qualcun altro, insomma, fatto sta che a una certa ci iniziò a prendere un po' di curiosità per la musica, sarà anche perché comunque visto a scuola ti fanno suonare così, e si infilò in questo negozio di CD, non mi ricordo chi, insomma, comprò prima sto CD degli Iron Maiden, e da lì, diciamo, sostanzialmente un po' nato il tutto, perché il tizio, diciamo, del negozio di dischi aveva un'impronta, com'era fortunata, com'era prima e ora un po' meno, diciamo molto rock, no, del negozio, sostanzialmente non è che, cioè, trovavi roba troppo leggera, e quindi diciamo da lì è partito un CD, due CD, poi vabbè quel negozio ha chiuso, però insomma abbiamo iniziato a suonare e da lì è nata la passione per tutto. Sostanzialmente è nato per quel negozio, è stato uno, sì, dei motivi. Io mi ci feci portare alla mia nonna quel negozio lì nel 95, comprai la cassetta di Spirito dell'Itfiba, che volevo portare un pezzo stasera ma non ce l'ho. Io invece comprai la cassetta di Aria delle Storie Tese, mi ricordo, anch'io mi feci portare da mio nonno a comprare la cassetta di Aria delle Storie Tese, che era il 97, non me lo ricordo, 98. Poi ecco, diciamo, la musica è anche una delle cose, se non la cosa, e ci ha aperto un po' più gli orizzonti, perché noi per cercare la musica poi siamo andati, ci siamo diretti verso Firenze, verso i posti, verso, sì, all'Emerson prima, che era più vicino, e mi ricordo la prima volta all'Emerson venne a vedere il concerto del Latte più e Bambini Fulminati, sì, insomma, vabbè, e appunto poi insomma di lì ci avevi la strada spianata verso la città, diciamo. E a proposito di musica, ci sentiamo un altro pezzo musicale? Ci sentiamo un pezzo punk a tema, La periferia dei Ratos de Porão. We'll be right back. sappiamo, vista, ci fa vista, ti lascia la guarda. Ora diciamo hanno parlato quelli che sono nati e cresciuti insieme a Inneto, ecco, sia riguardo all'aspetto sociale e anche più precisamente o più diciamo più a fondo rispetto a quello che poi sono stati gli interessi musicali e via dicendo. E successivamente, ecco, che è successo? Ma successivamente, allora io sono arrivato a Neto, credo nel 2004, su per giù, forse un po' prima. E successivamente, appunto, io penso di aver vissuto un quartiere, aver visto un quartiere già mutato, cioè già un bel po' rispetto a quello che racconta allora. E perché appunto... Per me personalmente lo skate park è stato da una parte un grande vettore di aggregazione, dall'altra un po' un ghetto in cui stare solo lì. Cioè io magari andavo anche a giro, però al Neto prevalentemente andavo allo skate park, che è stato anche molto veicolo di nuove conoscenze, cioè relazioni fuori anche dal quartiere. Cioè io ho frequentato tantissima gente perché lì non c'è molti skate park a Firenze, nell'area fiorentina. Lì comunque ci veniva un sacco di gente da fuori. Che successivamente poi magari mi ha portato a Firenze. Io di quando stavo lì mi ricordo, all'inizio, i primi anni, i motorini bruciati, cioè, che era una roba veramente allucinante del Neto, che t'alzavi la mattina e trovavi, non so, cataste di motorini bruciati, prevalentemente vecchi Ciao, ma anche motorini un po' più nuovi, qualche volta una macchina, esatto, c'era il piromane. E poi questo piromane oltre ai motorini dava fuoco anche ai camper. Sì, però poi mia mamma dice sempre che questo tipo era una persona che faceva l'assicurazione al camper. E gli diceva all'altro: fai l'assicurazione al camper furto incendio, se non te lo puoi permettere più di pagare, poi gli do fuoco io. C'è questa leggenda fantomatica. Cioè, il punto comunque che è da capire che, appunto, volendo creare un micromondo piccolo dove c'è appunto sì tutti i servizi, comunque il fatto è che metti un sacco di persone a vivere in un luogo abbastanza chiuso, se vogliamo, sì poi può andare, non è che è chiuso, però diciamo è come se fosse appunto, no, un paesino nel paesino, e non è che c'è stato solo il Pinegliani, ce ne stai di tutte, il piromane, quello che tagliava, e bene o male poi stando lì, anche se non veniva beccato, poi bene o male diciamo le persone poi sono più i grulli, diciamo, di zona sono quelli, ecco, e ce ne state diversi. Aspetta, ce n'è uno, allora, visto, perché diciamo il piano terra almeno credo il palazzo mio, non so se anche gli altri, sono tuttora di case popolari. Uno di queste c'era un soggetto che noi si amava da piccoli, per cui va tutto filtrato, diciamo, l'occhio dei bambini, e sanno essere anche parecchio stronzi. Si chiamava il pazzo. Questo era evidente che era un soggetto insomma psichiatrizzato, però insomma ogni pochino ne combinava qualcuna, tra quanto gli strozzava, era morto un cane strozzato nel giardinetto di casa sotto gli occhi di tutto il palazzo. C'era una volta tornò avvolto in un lenzuolo da Viale Pratese, era stato pestato a sangue, insomma questo era un po' l'orco. Noi ci aveva paura a scendere le scalette che portavano, perché la sua casa dava sul giardino, diciamo, dalla parte del giardino della Resistenza, tra l'altro si chiama così. E per andare là c'erano delle scalette da scendere, e noi di notte ci avevamo un po' paura, perché quella era la casa del pazzo, era un po' l'antro dell'orco. Però sostanzialmente era uno un poeraccio innocuo, ecco, a rivederlo con gli occhi di adesso. Però insomma era un personaggio pittoresco. Ecco, parlando di questo, mi viene un po' da pensare come succede in situazioni come queste, però diciamo il soggetto non è mai completamente espulso, diciamo, dall'ambito diciamo del quartiere, ecco, e quindi non ci sono psichiatrizzazioni oppure come gli interventi della polizia o roba di questo genere, ecco. Non lo so, ve lo chiedo. Ma io no. Mi ricordo una volta ci andò la polizia. No, è una storia che ci siamo inventati e che non sì. è mai stata. No, c'è stato un paio di rapine negli anni 90 sì. alla farmacia, così. In casa, in casa. No, vabbè, però niente. Ordinaria amministrazione. Sì, diciamo comunque di... tutto no, veniva come dire. Recuperato diciamo all'interno del quartiere, ma sì, diciamo che c'erano un po' di po' di soggetti che diciamo interpretavano la vita a modo loro, se vogliamo dire così, e che appunto stando in un luogo con 600 famiglie tutte attaccate, ovviamente non è che se vivi in maniera parecchio diversa diciamo che si nota. Però bene o male era un luogo, come si diceva prima, ceto medio basso, non è che c'era. Non è che chissà che venivano magari a rubare, roba. Cioè era un luogo abbastanza tranquillo da quel punto di vista. Ho accennato un po' il discorso dell'aspetto repressivo, ecco. C'erano visite da parte delle forze dell'ordine, ecco, diciamo sì, oppure una particolare attenzione, oppure... Allora, diciamo che lì nella zona Neto, proprio interno dei palazzi, devo dire assolutamente di no, in quanto cioè, posso assicurarvelo, diciamo, ecco, lo so, la polizia lì dentro, diciamo, no. Però, diciamo, subito fuori, da Viale Pratese, c'è stato un luogo che poi ha chiuso, non so, che anni, ha chiuso lo Sgamotto, sarà stato il 2010, sì, sì. Anni fa. Diciamo, era un luogo, era una sala giochi, sala biliardo, aperta fin dagli anni 80, che, diciamo, è sempre stato luogo, diciamo, di spaccio di fumo, coca, eroina anche tanto, che poi piano piano negli anni è scemato a forza di arresti retate, però si fermava lì, diciamo, poi oltre il via Pratese, dentro il Neto, non è mai stato un luogo dove né carabinieri né polizia, anche perché comunque la stazione dei carabinieri è in centro a Sesto, la questura di polizia è quasi a Firenze, e comunque magari il giretto se lo fanno, ma si fermano in zona Sesto, ecco, centro, è molto difficile, o se no tipo i posti di blocco, ma all'autostrada, quella zona è un po' dimenticata, ecco, se vogliamo, e questo rende anche, se vogliamo, tranquilla la situazione, insomma, non avere troppa polizia intorno non è che fa male. E quindi, vabbè, un quartiere, insomma, abbiamo detto un sacco di cose, in cui siate contenti di esserci cresciuti, ecco. Ma tutto sommato sì. Sì, dai, sì, sì. Sì, siamo molto contenti. Sì, anch'io, tutte le volte vado alla mia nonna, vado a trovare la mia cugina, cioè i miei cugini, ci sono volentieri. Faccio anche spesso una camminata sulla piastra, spesso, una volta l'anno, una camminata sulla piastra per vedere com'è, se c'è ancora, più che altro se c'è ancora gente, bambini che ci giocano, ma anche adulti che si trovano fuori a parlare. Io mi ricordo anche i nostri genitori, e non solo i nostri genitori, erano tanti anche gente di mezza età che si trovava, usciva sulla piastra, usciva al Neto, scendeva le scale, stava giù e parlava, cosa che ora si vede molto molto raramente. Gli unici che lo fanno sono i miei nonni, per dire, cioè, che hanno 85 no, vabbè, anni. In realtà c'è una diciamo la nuova generazione di coppie, cioè di neogenitori con i bambini piccoli, attraverso i bambini, poi i bambini spesso sono anche veicolo di socialità per i genitori, e comunque hanno ricreato un po' appunto tessuto sociale di questo tipo, ecco. Per il resto, insomma, per lo più, cioè, ovviamente l'età media è dopo 30 e rotti anni si è alzata decisamente. E comunque diciamo che questo sfilacciamento sociale magari è meno marcato che nel contesto generale, insomma, nel senso che lo sfilacciamento sociale è diffuso dappertutto, ecco. Quindi sì, certo. Cioè, non è che è una prerogativa o un po' problemi particolari della zona. E che futuro vedete per il quartiere? Ecco, chiaramente come dire, rispetto anche a quella è la situazione generale, ecco. Allora, posso parlare un po' del presente. Un po' del presente è che molte di quelle case lì ora sono in affitto agli studenti, cioè non dove stavamo noi, ma dietro ci sono diverse case che sono in affitto agli studenti perché hanno aperto il polo universitario a Calenzano, e mi è capitato di andare in una casa di gente e mi hanno detto che sono diversi e si ritrovano lì e fanno con briccola tra virgolette prima di andare a Firenze. Sono 3-4 anni fa erano una trentina di persone, 30-40 sì, ragazzi, tutti ovviamente se abitano lì, gente che viene da fuori Firenze, che ha preso la casa in affitto, e c'è qualcuno che ci sta un po' lucrando, perché poi fai il prezzo dell'affitto, lo fai come quello di Firenze. Cioè, te paghi 320, mi ricordo, mi dicevano 300 o 320, non mi ricordo, una 3, sì, 350 la doppia e 300 la singola. Che comunque per stare al netto, ok, hai tutto lì vicino, ma sei al netto. Cioè, se non hai un mezzo di locomozione, ti sposti difficilmente ora. Soprattutto la sera, se sei un ragazzo. E quanto potrebbe essere, quanto potrebbe incidere le previste, anche se sono tuttora contrastate, trasformazioni nella piana, rispetto, quanto è lontano per esempio dal sito dell'inceneritore? Senti, quello è uno dei posti dove, insomma, se tira il vento giusto o sbagliato, diciamo, cioè, sembra avere case Passerini dietro casa, insomma, dalla parte se stessa è uno dei quartieri più vicini alla discarica, e quindi anche, sì, al posto dove dovrebbe, dove hanno previsto che sorga l'inceneritore. E questo, il nuovo aeroporto, se, così come da progetto, appunto, sarebbe ancora più vicino, per cui, ecco, e da lì io mi ricordo, sempre tornando a questi episodi un po' idilliaci della mia infanzia, che praticamente, cioè, uscivi di lì, attraversavi la ferrovia e mi andavo in bicicletta con mio babbo e andavi direttamente in quello che era il parco della Piana. Che c'era una certa, lo svincolo dell'autostrada, però appunto era comunque, cioè, un'area di campagna a qualche centinaio di metri da appunto dai quartieri residenziali, e insomma, è proprio la zona per l'appunto che verrebbe completamente, dove poi dopo ci hanno fatto il parco della Piana, che verrebbe spazzata via dall'aeroporto, cioè si reerebbe, cioè, quindi inciderebbero abbastanza pesantemente, diciamo, questi. Sì, come tutta la zona di Sesto, come si dice, pianeggiante, non quella collinare o addossata alla collina. Diciamo che completerebbe la trasformazione, perché comunque rispetto a quando veramente si era vicini noi, cioè, Sesto è il doppio, cioè, nel senso, è quella, no? Però gli spazi sono riempiti quasi tutti, quando eravamo piccoli, cioè, era molto più sgombra in generale, e quindi, diciamo, poi questa roba qui andrebbe proprio a dare il colpo di grazia, cioè, nel senso, rimane poi veramente poco rispetto a quello che era, insomma, come diceva lui. Ma c'è una sensibilità, diciamo, non tanto in mobilità, insomma, se non altro di, come opinione pubblica, ecco, di contrarietà, diciamo, a queste. Ma sai, ora, cioè, a vista Sesto è successo che il PD è riuscito a perdere uno dei suoi comuni storici, sia per un paio diversi autogol che si sono fatti proprio a porta vuota, sia perché comunque poi è diventato di fatto una sorta di referendum sull'inceneritore. Per cui io qualcuno ce l'ho visto anche alle manifestazioni, ai presidi di proprio abitanti del Neto. Ritornando all'inizio, ci abitano ancora 1500 persone lì al Neto. Forse anche di più. Metti appunto 600 famiglie solo, appunto, proprio strettamente del nucleo dei palazzi nostri e di quelli dietro. Se poi appunto si comprende anche tutta l'area di via Nievo, via Foscolo, che c'è poi le altre vie là dietro, ora Cimabue, Berché, e quindi, diciamo, metti, ecco, 1000 famiglie, e quindi di conseguenza, boh, 3-4 persone per famiglia. Sì, sì. Sì, poi appunto io non so quando, perché per esempio io non sto nei blocchi dove i blocchi popolari, dove non lo resto in uno dei palazzi che ci sono subito dopo le scuole, che è in via Alfieri, appunto. E, lì c'è, cioè, comunque sono palazzi, cioè i primi sono quelli dove sto io, sono tutti palazzi di 5 piani, come sono tante zone di Sesto, ma anche limitrofe, anche dall'altra parte, come può essere il Quinto. E poi, boh, oltre, cioè, non so, parlando di trasformazioni sociali, cioè, credo loro sicuramente appunto l'hanno visto molto di più, perché parlavano di questa piana che si riempie, ma, cioè, comunque già negli ultimi 15 anni abbiamo visto subito sotto la ferrovia lì a Padule, cioè, sorgere un sacco di nuove zone residenziali, tra l'altro molto suddivise. Cioè, io sono dell'idea che stiamo facendo una cosa molto simile che a Firenze, di cioè, creare queste piccole fasce di territorio in cui accanto alle zone popolari più storiche si va a creare tutte delle nuove stratificazioni di ceti sociali, perché comunque anche il Neto adesso è così, cioè dalle case popolari, poi c'è i palazzi e poi in fondo stanno facendo delle pseudo villette che sono comunque destinate sicuramente ancora di più altri ceti sociali. E in totale in tutta quell'area credo ci stiano diverse migliaia di persone, si fa forse più di 5.000, quasi 10.000 pare. Sì. E considerando Padule, no? Il parco sopra la ferrovia. Sopra la ferrovia e via Pratese. Il parco, pur essendo nel comune di Calenzano, comunque è nel comune di Calenzano, no? Allora, il parco sì, perché lì è suddiviso praticamente, allora, sostanzialmente un parco pubblico, un accesso sì, pubblico. Sì. E a nord della strada, al nord di via Pratese, diciamo, da un certo punto è Calenzano e sotto è Sesto, diciamo lì si divide. Che poi sembra anche abbastanza, è abbastanza grande, insomma, no? Sì, mi pare sia 8 ettari, mi pare. Sì, 8 ettari dovrebbe essere. E poi c'hai il perimetro intorno, tra l'altro, dove va un sacco di gente a correre. Quanto è? Un chilometro e su 8 ettari, insomma, poi tutto. Ecco, l'ultima cosa che vi volevo chiedere, ma però mentre parlo, vai. Quelli che sono attualmente in affitto. Sì. La proprietà è com'è la proprietà? Io, cioè, quelli che conosco io, tra virgolette, sono magari è la famiglia, cioè il, che ne so, il figlio del vecchio proprietario, diventando grande, ad esempio, inizio 2000, ha comprato un'altra casa, i genitori sono morti, si è ritrovato questa casa e l'ha affittata, cioè è il singolo. Quindi non c'è una... No, grossa immobiliare si è accaparrata. Cioè, c'erano dei vincoli da questo punto di vista, perché nel momento in cui te prendevi all'epoca, no, te prendevi la casa in questa, attraverso questa strada agevolata, diciamo così, non la potevi né rivendere né affittare, diciamo, a prezzi di mercato, quantomeno. Nel momento in cui però è venuta fuori, cioè si sono dovuti ricomprare il terreno, eccetera, eccetera, sostanzialmente come, cioè, sono venuti, no, diciamo, il comune come contropartita le ha offerto, ha tolto vincoli su questo. Ma non ci sono stati episodi brutti, diciamo di sfratti o roba di questo genere? No, che no. Mi ricordo. Cioè non c'è un... Si parla comunque di percentuali basse. Sì. Ora ci sono un po', ma quando ci abitavamo noi ci stavano pochissime persone, ora magari un po' di più. E la scuola fucina, diciamo, di gioia, insomma, ci sono ancora tutti in questi servizi, la scuola elementare? Sì, c'è tutto. Quello c'è. Sì, sì. Continua a essere vissuto, perlomeno la gente sta in casa, va al lavoro, queste cose le fa. In realtà le attività del, credo, no? Le attività che ci sono lì sopra la Coop, tutte là dove c'è la farmacia, il bar, comunque è rimasto una parte, no? Cioè, parzialmente... Sì, ci sono delle cose... Sì. Comunque, boh, non lo so, io me lo immagino un posto prima molto più frequentato, cioè è un po' desolante in realtà, allora, la parte, cioè, che sarebbe quel circuito sociale intorno a questa serie di attività che poi erano il fulcro del luogo. Cioè. Sì, il punto è quello che erano appunto studiate per una sorta di vita in comune, se vogliamo, perché sì, stavi ognuno nel suo appartamento, il condominio, ma questa situazione, come abbiamo ripetuto prima, ti portava comunque a star fuori, e quei negozi erano quei negozi appunto di prima necessità. Ora sostanzialmente poi si è riempito di centri commerciali intorno, di tante altre situazioni, e comunque quelli sono piccoli negozi, l'elettricista lì sotto campa perché la gente è amica e gli dispiace, magari gli compra una lampadina, però il sabato mattina va da Brio e ne compra 10, e poi di conseguenza ci sono meno bambini, e la gente fa meno bambini, e di conseguenza chi non ha bambini o non ha un animale è tornato dal lavoro, magari sta a casa, che esce lì sotto, e quindi, come diceva lui, sì, è sicuramente più, che anche io quando vado dai miei genitori a mangiare, faccio la terrazza magari a fumare una sigaretta, E sì, è desolante rispetto a com'era una volta, perché appunto è un posto studiato per una vita sociale che ora ne viene un po' meno. E nulla, siamo alla fine, diciamo, di questo tentativo di ricostruire una geografia dal basso, una storia dal basso di un quartiere di Sesto, diciamo, però comunque la Piana Fiorentina e niente. Coi saluti, anche le ultime cose che volete dire, ecco, rispetto a quello che si è parlato fino ad ora. Ma si è detto un monte di cose che bisogna. Boh, saluta, tanti saluti. Salutiamo e speriamo che sia interessato a qualcuno. Che qualcuno vada al Neto. Sono perle che non si trovano sicuramente su internet, perché se andate a cercare sul Neto trovate della stazione del parco, quindi speriamo che qualcuno sia interessato. Sì, diciamo che gli unici che conoscono il Neto è perché ci passano oltre, allora quantomeno quando vedono il cartello sanno più o meno in che posto si trovano. Se un posto ha ben più fama per la stazione, alla stazione del Neto, sì. E vi lasciamo qui. Dire una cosa bellissima, c'è sotto passaggio della stazione del Neto dove c'è scritto Neto Capitale Roma Succursale, che è un po' che è bellissima. E su questo vi lasciamo, ricordiamo Passaggio a Nord-Ovest tutti i lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì 30 alle 14.30, sempre su Radio Wombat. Il sito è wombat.blogs.org, a cui collegandovi potete sentire sia la diretta in streaming e sia a cui potete comunque scaricare i podcast delle precedenti trasmissioni, sia di Passaggio a Nord-Ovest che di tutte le trasmissioni che vanno in onda su Radio Wombat. Il profilo Twitter è twitter.com/radiowombatfirenze. Ciao ciao.